Zolt. Fulminati in azienda. Amici ascoltatori, bentornati all'isola dei bramosi, l'isola dei dipendenti che bramano di mantenere il loro posto di lavoro durante questa ripresina. E siccome la ripresina è molto ina, ognuno dei dipendenti in ogni puntata sarà nominato dai colleghi e dovrà abbandonare l'azienda. Chi sarà il nominato di oggi? Scopriamolo insieme. Allora, colleghi, abbiamo definito il piano retributivo per la distribuzione delle noci di cocco. Ciascuno di voi, scusate, avrà un colloquio con noi delle risorse umane e conoscerà il numero di noci di cocco a cui ha diritto secondo il suo livello di azienda. La schedula è un segreto dei Pulcinella, lo sanno tutti sull'isola quante noci prenderanno. Ma come l'avete scoperto? Voglio dire? Perché de notte una matari si è infilata mentre dormivi sotto il letto de foglie dove avevi nascosto il piano e se lo siamo letti tutti. Sì, ma questo è spionaggio aziendale, voglio dire, non è possibile. Sì, vabbè, questa dura guerra da sopravvivenza. Scusa, però, io quello che non capisco, perché io debba ricevere 5 noci di cocco la settimana meno di centrifuga dopo anni di servizio in azienda? Perché l'unico lavoro che fai sull'isola è fare come voglio i fiocchi sui cocchi, organizzare conferenze stampa con i pesci ragno. Ma no, se può, basta, per piacere, basta litigare. Anche qui dobbiamo litigare sugli stipendi. Allora, che ognuno si accontenti di quello che ha. Dottor, siccome alla fine qua sull'isola il grosso del lavoro lo penso mica, sono stegista vita. La pensa che dopo aver raccolto 50 noci di cocco al giorno, almeno qua, un cocco a tempo indeterminato e me lo darà? Paco, te lo dico con il cuore, solo se dimostrerai impegno e devozione alla causa, come sempre, prenderemo in considerazione questa possibilità. Ma adesso abbiamo altre priorità, per favore. Sì, appunto, dobbiamo ancora decidere gli MBO, cioè i premi obiettivi di fine reality. NCS, non ci siamo schedula. L'obiettivo, cara la mia schedula e cara la mia font, è trovare dei clienti qui sull'isola con una campagna di marketing adeguata. Ma come clienti sull'isola? Ma se l'isola è deserta, non c'è nessuno. Non importa, io sono giù di morale, trova qualcuno, altrimenti io se non vendo non fatturo, e se non fatturo mi deprimo. Ed eccoci alle nomination di oggi, sentiamo. Io nomino Paco, perché uno stagista a vita non può continuare anche sull'isola a chiedere a tutti un contratto a tempo indeterminato. Io ho fatto un assessment a 360 gradi a tutte le risorse sull'isola e alla fine do la mia nomination a Paco, perché tutti i manager si sono lamentati di aver ricevuto da lui un servizio di noci inferiore al value proposition, e quindi questo è inaccettabile per me. Io ho deciso di nominare Paco, perché se nomino uno stagista non mi faccio nemico nessuno tra quelli che contano qui sull'isola. La mia nomination? Paco si è messo a scrivere il menù a base di frutta esotica su foglie di piante dell'isola non omologate dal nostro nuovo designer, Coco Chanel. Siccome tutti avranno data la nomination a sorpezzo, io nomino Paco, perché se no poraccio stagista non nomina mai nessuno e gli diamo st'attimo di notorietà. Dai, famo una cosa buona, una cosa... Mico ho deciso di nominarmi da solo. Almeno se vuol che lavoro, i dovrà farmi finalmente il contratto a tempo indeterminato, se no mi manda a casa. Allora, cari ascoltatori, abbiamo finalmente il nome del prossimo eliminato dall'isola dei bramosi. Apriamo la busta. Eccolo, attenzione. Con il 100% delle nomination, Paco. Paco? Ma lo avete nominato tutto. Ah, bella, bella riconoscenza. Dopo che mi sono arrampicato sugli alberi come cita. Allora adesso vado a casa, no? Dove vai, Paco? Tu non te ne puoi andare dall'isola. Se te ne vai tu, chi è che raccoglie le noci di cocco, va a pescare, pulisce le capanne la mattina, scende il fuoco? Non si può fare sta cosa. Sono d'accordo. Cita, vieni qua, dai, stavamo scherzando. Direi di considerare annullate anche queste nomination e di proseguire il gioco domani. Così decideremo finalmente chi mandare veramente a casa. E anche per oggi nessuno dei dipendenti è stato licenziato e nominato. Appuntamento a domani. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.